per ricordare Angela, perché chiaramente tutte noi siamo legate da 30 anni di lavoro insieme e di attività, e questa scomparsa ci ha lasciato senza parole. Abbiamo detto adesso dobbiamo fare qualcosa, perché ci sembrava assurdo questa cosa. Quindi abbiamo pensato un sacco di iniziative, e questo tutto insieme alla famiglia, che comunque con la quale siamo in contatto e condivide il nostro progetto. E il primo che abbiamo lanciato è questo premio di laurea, ed è rivolto a delle ragazze, anche ragazzi se ci fossero, di tesi triennale magistrali sulla violenza contro le donne, di tutte le materie, può essere filosofia, sociologia, ma anche giurisprudenza, anche medicina, qualsiasi tema che affronti il tema della violenza contro le donne. E dal 2018 in poi, quindi ci sono 3 anni, la scadenza è abbastanza vicina, perché scade il 6 di settembre, quindi se avete tesi, amiche che hanno fatto delle tesi, inviateceli e ci sarà un premio durante il Festival della Violenza Illustrata che facciamo sempre a novembre, ed è un'occasione insomma per conoscerci e per avere anche questo piccolo premio di 1.000 euro. In realtà, come dire, i riconoscimenti sono due: da un lato appunto il premio, dall'altro una menzione. Sì, perché abbiamo deciso di non mettere insieme tesi magistrali e triennali, perché poi le tesi triennali hanno poca possibilità di vincere, no? Perché le tesi triennali sono un po' più semplici, più brevi, meno approfondite, e quindi insomma le giovanissime che hanno scritto comunque una tesina sulla violenza contro le donne, coraggio, mandatecele, e sarà una menzione, quindi insomma un incoraggiamento poi a continuare questi studi che a noi sono molto cari. Ecco, quanto è importante la ricerca e, come dire, l'approfondimento anche accademico sulle tematiche di cui voi vi occupate da molti anni come centro antiviolenza? Ma chiaramente è molto importante, noi favoriamo molto, aiutiamo molto le studentesse a svolgere delle tesi e studiare, perché altrimenti non si va avanti, ci sono tantissimi approfondimenti. E però bisogna continuare a fare questo, anzi se una non ha ancora deciso, noi abbiamo una raccolta di tesi che possono essere consultate, così vedete quello che è stato già fatto, veramente tante cose sono già state studiate, però ci sono tante cose nuove, e quindi per noi è fondamentale, perché parte da poi la riflessione sul come interagire e lavorare, promuovere una cultura che sia contro il patriarcato, diciamo, generale, e contro la violenza maschile contro le donne in specifico. Certo, ecco, ci sarà modo, immagino, anche nel Festival La Violenza Illustrata di ricordare anche in altri momenti, Angela. Certo, adesso questo è il primo lancio che abbiamo fatto, stiamo preparando dei corsi di formazione, un corso di formazione sulla violenza, il tema della violenza, sempre dedicato a lei, e più altre iniziative che adesso man mano escono. Comunque il primo è questo, e la scadenza, come dicevo prima, abbastanza ravvicinata, perché il 6 settembre, insomma, con l'estate che c'è, magari molti sfugge questa informazione, quindi ci terremo molto a diffonderla il più presto possibile. Ecco, sì, infatti ti chiederei anche un po' di riferimenti rispetto a dove si possono trovare tutte le informazioni che stiamo citando adesso. Perfetto, allora sito è Casa delle Donne, www.casadonne.it, e lì trovate premio di laurea, c'è il bando che scaricate e dopo va inviato un PDF semplice all'indirizzo che è indicato. Se avete dubbi, se la tesi è adeguata, se va bene, c'è un numero di telefono che potete chiamare e chiedere informazioni se ci sono dei dubbi. Comunque è molto semplice, basta inviare il PDF, il documento, non è una cosa complicata.